Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia. Di Dino Pesole. L'accordo raggiunto a Bruxelles lo scorso 18 marzo tra Unione Europea e Turchia sui rifugiati ha aperto la strada a quella che il primo ministro turco Ahmet Davutoglu ha definito un'intesa storica nei rapporti con il resto dell'Europa. Nel pacchetto rientra anche l'accelerazione del complesso e tutt'altro che facile negoziato in corso per l'adesione della Turchia all'Unione Europea. La Turchia ha presentato domanda di adesione nel 1987 ed è stata dichiarata paese candidato nel 1999. I negoziati sono stati avviati nel 2005. 8 capitoli sono bloccati e nessun capitolo sarà chiuso provvisoriamente fino a quando la Turchia non applicherà a Cipro il protocollo addizionale all'accordo di associazione di Ankara. Alcuni stati membri dell'UE si sono opposti all'apertura di altri capitoli. Nel maggio 2012 la Commissione ha lanciato un programma costruttivo con la Turchia per rivitalizzare le relazioni bilaterali. Dopo uno stallo di oltre 3 anni, nel novembre 2013 è stato aperto un nuovo capitolo di negoziato sulla politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali. Nel dicembre 2013 l'Unione Europea ha firmato un accordo di riammissione con la Turchia. Vi sono pareri discordanti in merito all'opportunità di aprire i capitoli chiave 23 e 24, che sono direttamente legati a molte questioni che destano preoccupazione nelle relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia. In primo piano la questione dei diritti umani. In un contesto geopolitico che vede la Turchia, membro della NATO, in posizione strategica nello scacchiere dei Balcani e ora bersaglio sia del terrorismo dell'ISIS che di quello dei curdi del PKK, si collocano le relazioni bilaterali con l'Italia, quarto partner commerciale della Turchia, con oltre 19 miliardi di dollari di interscambio. Sono circa 1.200 le aziende a capitale italiano che operano nel territorio turco. Sono almeno 4 le direttrici principali. La consolidata presenza di grandi gruppi industriali manifatturieri italiani presenti con impianti produttivi nei principali cluster industriali turchi, la collaborazione tra piccole e medie imprese, la partecipazione allo sviluppo infrastrutturale del paese e la cooperazione nel settore della difesa. Il gruppo Barilla è tra le maggiori imprese italiane che operano in Turchia. Entrata nel mercato turco nel 1994, Barilla ha acquistato le quote del gruppo Dogus e ora è leader nel settore della pasta in Turchia, al pari del gruppo Ferrero, entrato nel mercato turco 30 anni fa. Nel 2013 è stato insediato il primo stabilimento in Turchia a Manisa, fabbrica in cui vengono prodotte per il mercato turco 25.000 tonnellate di Nutella. Nel settore degli pneumatici, il fatturato di Turca Pirelli ha raggiunto 1,2 miliardi di lire turche, grazie a oltre 5 milioni di pneumatici esportati, con un ricavo dall'export di 682 milioni di lire turche. Abbiamo in linea da Istanbul Aldo Kaslovski, che è presidente onorario della Tusiad International ed è presidente del gruppo Organic. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera. Allora, ci racconti un po' intanto gli indici di sviluppo della Turchia. Negli ultimi 15 anni, dal 2001 ad oggi, abbiamo praticamente raddoppiato il PIL, che oggi raggiunge 730 miliardi, con una crescita per i primi 12 anni dell'8,2%, quindi un po' meno della Cina, insomma. Quindi siamo oggi la sedicesima potenza economica mondiale, la sesta tra i paesi dell'Unione Europea, quindi diciamo che abbiamo avuto una performance sicuramente molto buona, dovuta soprattutto alla qualità della manodopera in questo paese, l'indole consumistico che ha questo paese, e soprattutto anche oltre al mercato interno abbiamo anche delle sinergie con tutti i paesi dell'Asia centrale con i quali siamo i primi investitori. Ecco, in questo contesto, Presidente, si collocano i rapporti e la presenza delle imprese italiane che, come dicevamo poc'anzi, è ormai molto molto consolidata da anni, 1.200 aziende. Sì, sono 1.200 aziende di cui buona parte sono già ormai da più di un mezzo secolo, diciamo, presenti in questo paese. Ho sentito nominare dei nomi, ovviamente c'è anche la Fiat per esempio, tra queste industrie presenti in Turchia ci sono anche tutte le banche italiane, cioè due banche italiane importanti, l'Unicredit e l'Intesa, che non ho sentito menzionare, ma comunque ci sono. Tutte queste imprese fioriscono, hanno sempre avuto degli ottimi risultati, sono sbarcati in questo paese non solo per il mercato turco, ma anche per essere presenti nei paesi dell'Asia centrale. Certo, no, è molto interessante questo, anche perché dà la sintesi di un rapporto che è consolidato dal punto di vista commerciale e non solo, ma anche da quello culturale, politico. Sì, devo dire che queste imprese, queste aziende sono venute qua, soprattutto quelle degli ultimi 10-15 anni, non per il costo basso della manodopera, perché ormai non abbiamo un costo molto basso rispetto anche a tanti altri paesi dell'Unione Europea, ma soprattutto per la qualità della manodopera. Adesso veniamo all'argomento chiave, cioè il percorso di adesione all'Unione Europea. Anche alla luce dell'accordo che è stato siglato lo scorso 18 marzo sui migranti e che pone in primissimo piano il tema dei diritti umani e l'offensiva del terrorismo con cui purtroppo la Turchia sta facendo i conti proprio in queste settimane. Innanzitutto vorrei fare una precisazione, cioè questi ultimi accordi che sono avvenuti questo mese a Bruxelles, non bisogna confondere, diciamo, l'argomento adesione all'Unione Europea con le discussioni in corso ancora per i migranti. Sono due cose ben distinte. L'adesione all'Unione Europea è data ormai da più di mezzo secolo ormai, e quindi è chiaro che forse è l'argomento che accelererà anche di più in questo momento all'adesione all'Unione Europea, per quanto sappiamo che ci sono dei problemi tipo quello che avete menzionato, per esempio di Cipro, certo. I problemi della democratizzazione e dei diritti umani, ma quelli soprattutto diritti individuali. E i capitoli che sono stati aperti, che avete anche menzionato, quello che più importa a noi, soprattutto dovrebbe importare moltissimo anche all'Unione Europea, sono il capitolo 23-24, sì, che sarebbe il capitolo della giustizia, della democratizzazione e dei diritti umani. Questo sono due capitoli che un momento prima l'Europa dovrebbe poter agire, e rapidamente. Ecco, adesso ci racconti, Presidente, un po' della vostra azienda di famiglia, il gruppo Organic. Che cosa fa e qual è la presenza nel territorio e nell'economia turca? Beh, noi come famiglia facciamo parte di quegli italiani che hanno dovuto migrare all'estero. Siamo sbarcati in questo paese nel 1878, allora l'Impero Ottomano. E nel 1924 papà mio ha fondato la sua prima azienda, che era un'azienda puramente commerciale, perché era una Turchia prettamente ed esclusivamente agricola. E nel 1965 che io ho fondato la parte industriale della nostra ditta di famiglia e del gruppo Organic. Siamo presenti in Svizzera, in Olanda e con due stabilimenti in Turchia, mentre siamo presenti con l'esportazione in oltre 68 paesi. Produciamo prodotti chimici di alto valore, abbiamo un reparto di ricerca di polimeri che ci ha permesso infatti di poter entrare anche e competere in Europa. Non so cos'altro. Quindi è un esempio di un'azienda che ha una vocazione industriale prevalente e che è strettamente connessa sui mercati internazionali. Assolutamente, assolutamente. Che è un esempio che in realtà riguarda molte altre imprese. In fondo questo è un aspetto della Turchia che meno si conosce. Ma sì, meno si conosce, anche perché normalmente i turchi si aspettavano delle joint venture e delle collaborazioni, sì, soltanto in territorio turco, ma ormai da più di 15-20 anni la Turchia ormai si è aperta anche al mondo, e l'Europa è la destinazione preferita, con presenze industriali turche in Europa, tra l'altro. Certo. Quindi noi vediamo, per esempio, nell'industria dolciaria, la presenza della Turchia in Italia, la presenza nell'industria alberghiera anche in Italia, e noi chimica in altri paesi europei. Quindi la Turchia si sta espandendo, è la prima, ripeto, paese investitore nei paesi dell'Asia centrale. Stiamo esponendoci in tutto il mondo. Vedi per esempio le linee aeree turche, che sono la prima società aerea nel mondo ormai come destinazioni, con numero di destinazioni. La ringraziamo moltissimo per averci aiutato a capire un po' meglio quel che si muove in un paese complesso, ricco, ma pieno di iniziative, e soprattutto con un interscambio molto importante con il nostro paese. Buona serata e grazie ancora. Grazie a lei, buona serata.